E allora entriamo subito nel vivo della trasmissione, dove quest'oggi, insomma, a qualche giorno dal 25 aprile, parleremo di resistenza, resistenza a 365 giorni all'anno e resistenza anche, insomma, a 360 gradi. Quindi parleremo di varie esperienze di resistenza nella nostra città, ma non solo. Quindi daremo voce appunto ad alcune di queste esperienze sentendole direttamente ai nostri microfoni. E vi lascio con un pezzo musicale e poi, insomma, entreremo più nel vivo del sommario. Watch out, some guys, are only about. Lei non ha neanche bisogno di presentazioni, è Lori Neal, questa è The Whoop. Since you were looking for your friend, the one you let hit and never called you again. Remember when he told you he was about to bend your man? Yeah. You act like you ain't him, they give him a little trim to begin. How you think you really gon' pretend? Like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, you probably been talking out your neck, then you're a Christian. A Muslim sleeping with the gin. Now that was the sin that did Jezebel in. Who you gon' tell when the repercussions fit? Showing off your ass cause you thinking it's friend, girlfriend. Let me break it down for you again. You know I only said cause I'm truly genuine. Don't be a hard rock when you really are a 10, baby girl. Respect is just the minimum. You still defending them now. Lauren is only human. Don't think I haven't been through the same predicament. Now I'm sitting inside your head like a million women in Philly pen. It's silly when girls sell their souls because I spend. Look at where you be in. Hair weaves like Europeans. Fake nails jump out the wind. Come again. Win, come again. Dedicated to the man, most concerned with his friends and his Timbs and his women. Him and his men come in the club like hooligans. Don't care who they can spend popping, yeah. Like you got your top of 10. The one to pack pissed out by the waistman, pissed out by the casement. Feeling their mother's basement. The pretty face man claiming that they did a bit, man. Need to take care of their kids before I hit them in the basement. For a case when the child's in one place. Money taking all break and now you wonder why women hate men. The sneaky silent man, the punk domestic violence man. The quick job asking them to stop acting like boys and be men. How you gon' win when you ain't right with them? How you gon' win when you ain't right with them? How you gon' win when you ain't right with them? Come again. Intanto qui negli studios di Radio Blackout ci ha raggiunto anche Francesca, che quest'oggi ha avuto un po' di disavventure con il pullman, per cui ne approfittiamo per salutarla. Un saluto quindi anche da me. E insomma, diamo subito i contatti che non li avevo ancora dati, quindi se volete interagire con noi 011 24 95 669 il numero di telefono fisso, invece 346 66 73 263 il numero di cellulare per squilli, messaggi e quant'altro. come dicevamo prima, insomma, oggi parleremo di resistenza 365 giorni all'anno, resistenza insomma sempre, come ci ha ricordato il partigiano Giovanni Accomasso questo 25 aprile in banchiglia. E per questo motivo sentiremo i compagni di Cagliari, visto che oggi in piazza c'era un tentativo appunto da parte dei fascisti di uscire allo scoperto, di prendersi appunto una piazza, ma sicuramente l'azione dei compagni, che ha già fatto sì che il 25 aprile nella città di Cagliari non sfilassero più i fascisti, che sembrerà assurdo, ma gli scorsi anni invece era così, sicuramente impedirà qualunque tipo di legittimità anche nella giornata di oggi. Per questo ci metteremo in contatto con loro. Così come ci metteremo in contatto con Irene, una compagna del Comitato di Solidarietà ai Rifugiati e Migranti dall'Exmoi, che ci racconterà quella che è stata la loro settimana di lotta, come probabilmente molti avranno già seguito. Infatti c'è stata una grossa vittoria, che è stata quella dell'ottenimento della residenza per tutti, quindi non legata all'emergenza Nord Africa e soprattutto non legata alla possibilità di appoggiarsi a qualche associazione già esistente, ma per loro anche la possibilità insomma di fondarne una ex novo, di auto-organizzarsi anche in questo senso, per cui sicuramente ci sembra importante sentirlo raccontare proprio dalla loro viva voce. Questo e molto altro anche durante la trasmissione, vedremo un po' insomma anche in base ai tempi come proseguire. Nel frattempo, allora, mentre ci prepariamo per questa puntata, vi lasciamo come di consueto un po' di musica, quest'oggi selezione dalle sfumature punk rock. Vi facciamo ascoltare le Bikini Kill, un gruppo appunto alternative rock nato all'inizio degli anni 90, scioltosi poi nel giro di pochi anni nel 1998, e questo primo pezzo che vi facciamo ascoltare si intitola Candy. Buon ascolto. Quindi insomma un cambio musicale sicuramente dell'atmosfera hip hop che stavamo ascoltando. Aumentiamo un po' i giri così ci svegliamo tutti. torniamo in diretta su Radio Blackout. Ai nostri microfoni abbiamo Irene, come accennato prima, Irene dell'ex MOI, che ci parlerà un po' di questa esperienza di lotta e appunto di resistenza ogni giorno. Irene, ci senti? Sì, sì, ciao. Ok, Irene, appunto, noi ti chiederemo un po' di raccontarci come sta andando lì all'ex MOI e di farci anche insomma due aggiornamenti, insomma due parole anche sulla lotta per la residenza che di questi ultimi giorni. Sì, allora intanto questa settimana all'ex MOI è stata veramente una settimana all'insegna della resistenza, perché abbiamo avuto un'iniziativa dell'AMPI il 25 aprile che ha deciso di festeggiare appunto il 25 aprile con noi in sostegno alla nostra lotta, appunto come una forma di resistenza contemporanea ai poteri forti. E anche oggi abbiamo avuto un pranzo offerto dai comitati NOTAV Torino e Valsangone, anche loro in sostegno alla lotta dei rifugiati per il riconoscimento della dignità e dei loro diritti, e appunto per comunicare il messaggio forte politico e l'affinità delle lotte, dunque il resistere contro i poteri forti a prescindere dalla nazionalità, a prescindere da tutto, ecco. Invece per quanto riguarda la residenza abbiamo ottenuto qualcosa, abbiamo un tavolo di trattative con il comune, come già saprete, e ci hanno proposto una forma di residenza collettiva da dare ai ragazzi, che potrebbe essere una delle soluzioni possibili. Adesso in maniera assembleare valuteremo anche con i ragazzi cosa ne pensano, spiegando anche in maniera chiara cosa implica questo tipo di residenza, e decideremo insieme i prossimi passi da fare. Sicuramente quello di avere un tavolo di trattative con il comune è un grande successo, e anche la proposta che ci hanno fatto può essere un primo passo, può essere considerata come una prima vittoria. Certo, e poi insomma ci sembrava appunto significativo sottolineare il fatto che sia una vittoria per tutti, quindi non legata all'emergenza Nord Africa, non una vittoria ottenuta insomma segretamente cercando degli accordi con questo o quest'altro esponente politico, insomma, ma presentandosi direttamente all'ufficio centrale dell'anagrafe e certo. mettendoci la faccia, no? Esatto, esatto, infatti è stato proprio così. I ragazzi e noi tutti siamo veramente soddisfatti di quello che abbiamo ottenuto, ecco. Ci chiederemo ancora magari, Irene, se serve qualcosa, se si può dare qualche aiuto concreto, e anche se ti va magari di ricordare poi bene l'indirizzo esatto, perché ancora non fosse passato. Sì. Allora, l'indirizzo esatto è via Giordano Bruno 201, e chiunque voglia è libero di venire quando voglia, ecco. E per quanto riguarda gli aiuti, adesso stiamo raccogliendo per lo più beni di prima necessità, per cui cibo e tutto ciò che riguarda l'igiene personale, l'igiene della casa, eccetera. E insomma sta andando abbastanza bene, perché la solidarietà è molta da più fronti, abbiamo ricevuto, ci sono state anche delle raccolte fondi, e adesso stiamo progettando appunto qui all'ex MOI di mettere in piedi delle classi in modo che sia i ragazzi possano imparare meglio l'italiano, sia possano magari insegnarci tutte le lingue che sanno, e appunto iniziamo una condivisione di saperi vera e propria. Certo, mi sembra importante, così come mi sembra importante sottolineare anche la resistenza appunto e la riappropriazione contro la speculazione che era stata fatta proprio in quella zona in occasione delle Olimpiadi, quindi direi bene anche che queste palazzine siano fatte rivivere e siano per chi non ha casa. Esatto. Va bene, Irene. Sì. Noi ti ringraziamo e insomma ti preghiamo di rimanere sempre in contatto con la radio qualora ci fossero delle nuove iniziative da comunicare, da diffondere il più possibile. La radio sicuramente è lo strumento giusto. Sì, grazie mille a voi. Ciao. A presto, ciao. Allora, a presto, ciao. E quindi insomma lei appunto era Irene del Comitato di Solidarietà Rifugiati e Migranti, una delle esperienze che è sicuramente più testimonia della resistenza nella nostra città. We'll be right back. 16:25, siete sempre in ascolto di Interferenze. Allora, questa era la prima diretta che abbiamo concluso poco fa assieme ad Irene. Adesso ci stiamo preparando per contattare, insomma, le prossime dirette. Nel frattempo vi lasciamo ancora un po' di musica. Quella che avete appena ascoltato erano sempre le Bikini Kill. Il prossimo pezzo si intitola Rebel Girl ed è uno dei loro pezzi più famosi. Buon ascolto. I'm sorry. E allora ci apprestiamo a sentire un compagno da Cagliari, dove quest'oggi è prevista un'iniziativa antifascista per contrastare una marcia vergognosa che è stata autorizzata dalle politiche cittadine e dalla prefettura, che vorrebbe veder sfilare appunto i nostalgici del ventennio in memoria della Repubblica Sociale Italiana. Quindi ci metteremo tra poco in contatto. Comunque a Cagliari si è già tenuta una giornata di lotta pochi giorni fa, in occasione proprio del 25 aprile, quando finalmente appunto la città, dopo diversi anni in cui appunto le autorità cittadine autorizzavano questa connivenza del corteo antifascista da un lato e di nostalgici dall'altra, finalmente appunto è stata una vera giornata di liberazione, come insomma hanno scritto poi i compagni e le compagne di Cagliari, perché appunto per la città si sono viste sfilare solo gli antifascisti, e poi c'è stata una festa che appunto ha rilanciato sulla giornata di oggi. Al momento leggiamo che ci sono alcuni momenti di tensione, perché sembra che la polizia stia impedendo ai compagni e le compagne di accedere in piazza Gramsci, che dove dovrebbe tenersi questa giornata, quindi tra pochissimo ci faremo dire insomma dalla viva voce di chi è lì che cosa sta accadendo. Nel frattempo ancora un po' di musica, tra pochissimo la diretta. Allora, come promesso poco fa, abbiamo raggiunto i nostri microfoni Nicola di Radio Borrocca, che in questo momento si trova a Cagliari. Quindi Nicola, intanto un saluto, ci senti? Sì, ciao, buonasera a tutti e a tutte. Ecco, ti chiederei insomma di spiegarci meglio cosa prevede la giornata di oggi, che è stata organizzata questa giornata antifascista, anche un po' di raccontarci qual è la situazione in questo momento in piazza. Leggevamo insomma che ci sono alcuni problemi che le forze dell'ordine stanno cercando di ostacolare insomma lo svolgimento di questa festa. Allora, stamattina ci siamo trovati in una città completamente militarizzata. I fascisti, dopo essere stati cacciati il 25 aprile da Cagliari a Quartu, in cui sono stati nuovamente contestati, hanno deciso di spostare la loro manifestazione il 28 aprile. 28 aprile, che bisogna ricordare, sta dietro a Sardegna, un popolo sardo che combatte contro l'oppressione sabauda, vede sfilare i fascisti in piazza per ricordare un'altra bella dittatura che ha subito la Sardegna come tante altre regioni italiane. A parte questo, in questo momento la città è completamente militarizzata, ci sono camionette ogni via intorno a piazza Gramsci, per dire che è la piazza in cui i fascisti detengono la corona ai caduti, è proprio piazza Gramsci di fronte. E quindi noi abbiamo cercato, a parte che stamattina come siamo arrivati in piazza Gramsci per presidiare da tutto il giorno, siamo stati buttati fuori, ci siamo dovuti ricostituire in un paio d'ore e far girare una nuova convocazione. Per adesso ci sono più di 100 compagni che stanno cercando di avanzare in mezzo alle vie di Cagliari, ovviamente è quasi impossibile, però passo passo stiamo cercando di muoverci verso il presidio dei fascisti e farci sentire di nuovo ancora una volta. Adesso stiamo avanzando verso il cordone di polizia, ci sono persone sui tetti che cantano Bella Ciao, anche questa è una bellissima situazione. Niente, siamo per arrivare al clou, adesso vediamo come risponderanno i cordoni di polizia alla nostra avanzata, noi ci proviamo. Siamo circa quasi un centinaio di metri da quella piazza Gramsci in cui per l'ennesima volta a Cagliari vergognosamente i fascisti pongono una corona di fiori per ricordare la Repubblica Sociale Italiana. Ecco sì, infatti quello che insomma, anche importante rimarcare è il fatto che insomma, non sia la prima volta che vengono autorizzate cose di questo tipo, proprio a pochi giorni dalla liberazione, che insomma tutto questo si rischia anche in tutti quei discorsi, quelle retoriche che vorrebbero insomma l'antifascismo un po' annacquato in nome insomma della conciliazione, del dare spazio a tutti, che insomma sono retoriche assolutamente pericolose, quindi credo che certo, la vostra risposta di questo oggi sia assolutamente necessaria. Noi ci teniamo a ricordare che comunque l'antifascismo è importantissimo portarlo e portarne i valori, soprattutto in una regione come quella sarda che subisce la crisi in pieno e in cui queste avanguardie di estrema destra cercano consensi basandosi sull'insofferenza della gente. È una cosa che abbiamo fatto anche il 25 aprile creando una giornata di festa nella piazza Gramsci liberata, ed è una cosa che abbiamo cercato di portare anche a Quartu, in cui veramente un'altra volta la città militarizzata da una flotta di celerini ha permesso a 20 contatti fascisti di deporre un'altra corona per ricorrere la Repubblica di Salò. Bene, anche oggi noi rimarchiamo la nostra presenza in piazza, non ci siamo, e quindi adesso vediamo cosa succede. Penso che vi aggiornerò a breve, perché adesso devo dare una mano. Va bene, allora insomma ti lasciamo andare e ti ringraziamo tantissimo, nel frattempo sentivamo i cori e tutto, quindi insomma, anche da qua arriva il calore della piazza, quindi insomma buon proseguimento, in bocca al lupo. Grazie per questa mille. Giornata. Buona giornata a tutti e tutte, grazie ancora, ciao. Insomma, molto bello anche questa testimonianza, come dicevamo la puntata di oggi appunto dedicata alla resistenza 365 giorni all'anno, anche questa ci è sembrata insomma una bella testimonianza di che cosa voglia dire oggi essere partigiani. We'll be right back. because most girls ask for it. How do they ask for it? The way they act, the way they... I can't say the way they dress, because that's an own personal choice. Some dumb hoe that you butt rock your face and want to have a change. You're asking for it, and you deny it, but it's true. Loro sono sempre le Rebel Girl e queste White Boy. Resistente per una puntata resistente a queste interferenze. Allora, nel frattempo, qui ai microfoni di Radio Blackout abbiamo raggiunto in diretta telefonica Pisa, dove questa mattina c'è stato insomma un vile attacco incendiario allo spazio antagonista Nevroz, e insomma i compagni e le compagne sono lì in questo momento. Io non so se si sa già qualcosa di più, perché insomma quando abbiamo letto nella notizia non si capiva ancora chiaramente chi c'era, che quale fosse diciamo il movente dietro questo vile attacco incendiario, appunto. Però ci sembrava infatti, a proposito di questo, molto più importante sentirselo raccontare in questo momento da una delle compagne che lì in questo momento, che adesso ha i microfoni di Radio Blackout. Quindi Marri, sì, ciao a tutti. tutte, ciao. Niente, sì, come dicevi tu, questa mattina questo attentato incendiario che ha sostanzialmente distrutto l'interno del nostro spazio, siamo stati chiamati dai vicini di casa che hanno prontamente chiamato anche i vigili del fuoco e niente, noi ci siamo radunati subito qui in tantissimi su chi possa essere stato, qual è la mano appunto dietro questo attentato, le ipotesi poi sono quelle per cui insomma chi porta avanti delle lotte sociali in città come lo spazio antagonista Nevros da più di 10 anni sicuramente insomma dà fastidio. Nelle ultime settimane tra l'altro il livello delle lotte in città si è particolarmente alzato, per cui in parecchi potevano essere infastiditi e noi da subito abbiamo detto qui dietro c'è appunto qualcosa di padronale che può in qualche modo aver architettato questo vile attacco. La nostra risposta comunque è immediata, la nostra risposta è quella della città, abbiamo già ricevuto tantissima solidarietà nel giro di mezz'ora, qui al Nevros si sono radunate più di 200 persone, tra poco inizieremo un'assemblea pubblica nella quale cercheremo piano piano di ricostruire i fatti, capire meglio quello che è avvenuto. I vigili del fuoco sono andati via da poco, hanno fatto tutti i rilievi del caso e comunque insomma quello che ci preme dire in questo momento è che per quanto vogliano provare a fermare le lotte che portiamo avanti, noi continuiamo anzi nella direzione che abbiamo e ancora più forti di prima. Adesso pianificheremo una ricostruzione del posto che sarà insomma immediata, per cui questa è la nostra prima risposta e sicuramente non mancheremo di continuare a uscire in città insieme a tutte le famiglie sfrattate con cui portiamo avanti le lotte, a tutti gli studenti e le studentesse dell'università con i quali lottiamo ogni giorno, per cui insomma non ci fermiamo di certo di fronte a certi gesti. Va bene Mari, noi qui dai microfoni di Radio Blackout ti mandiamo un grosso abbraccio di solidarietà a te e a tutti i compagni e insomma sperando appunto di rivedere prestissimo il Nevros più bello e più vivo di prima. Grazie a tutti e tutte, ciao. Ciao Mari. Ciao. Insomma anche da questa testimonianza si capisce come anche in questi casi si resiste e si ricostruisce lo spazio appunto in modo ancora più forte di prima. I'm sorry. Okay, sorry. Okay, we're starting now. Yeah. We're the Kid to Kill, and we want revolution! Girls Gone Mad! Chiusura di puntata, insomma, facciamo anche due brevi considerazioni sul governo appena entrato. La prima cosa ieri che ha detto Letta, per chi appunto avesse visto in quel momento la presentazione dei ministri del nuovo governo, insomma, la prima cosa che si è affrettato a dire era che ci sono diverse donne, perché insomma il brand donna vende bene e si può dire anche che restituisca insomma una specie di impronta di pulizia morale a qualunque istituzione. In un momento come questo, insomma, ci sembra che più che mai venga utilizzato dai politici questo stratagemma, insomma, questo volersi un po' ripulire un'immagine che davvero è del tutto impresentabile, vista anche la crisi della rappresentanza, che penso stia raggiungendo davvero degli apici senza precedenti. Dichiarazioni entusiaste abbiamo raccolto in rete anche da parte di Se Non Ora Quando, come il fatto che insomma vengano elette donne basti di per sé ad essere appunto una cosa positiva, ed è sufficiente questo a rimuovere completamente il contesto e la totale mancanza di credibilità di questi ministri e del governo. Chiaramente nei discorsi di Se Non Ora Quando non si fa alcuna distinzione né di classe né di bandiera politica, insomma la cosa è positiva di per sé, il fatto che vengano elette donne è positivo di per sé, perché le donne avrebbero la cosiddetta marcia in più, sono garanzie di modernizzazione, eccetera eccetera. Queste sono proprio alcune delle loro dichiarazioni. In questo governo, che si sottolinea anche come sia giovane, e c'è anche la rappresentante nera, e insomma questo ancora di più va nella stessa logica, e sempre per insomma ripulirsi un po' l'immagine fa diciamo anche notizia il fatto che su diversi giornali è stata colta da commenti più che mai razzisti, ma nello stesso tempo invece viene sbandierata come segno di progresso, segno di apertura di questo governo Letta. Per quello che riguarda noi, insomma, questa era la La considerazione che ci premeva a fare, sicuramente appunto non ci interessa che in questo governo ci siano più donne rispetto ai governi precedenti, eccetera. Questa sicuramente non è una garanzia né di un migliore operato, né appunto questa, da lì insomma pensiamo che possa arrivare qualsiasi cosa di buono. Pensiamo che le esperienze di resistenza ci sono e che sicuramente sono altri i posti in cui vengono portate avanti. Questo insomma è quello che ci premeva dire. Poi sicuramente seguiremo per forza gli avvenimenti, gli sviluppi, diciamo, le vicende di questo nuovo governo, e magari presenteremo anche un po' più nello specifico chi sono queste ministre, no? Che dici, Franci? Sì, tra l'altro appunto insomma, al di là di tutto quello che dicevi tu, che ovviamente insomma il tentativo è chiaro nel presentare questo governo facendosi sponda insomma su queste retoriche del governo giovane, del governo delle donne, in realtà insomma mal cela una perfetta continuità con le politiche di questi ultimi anni. Insomma, l'esempio più lampante è il fatto che molti dei ministri arrivino da quello stesso governo Monti, che dimissionario, che però continua insomma a dare dei colpi di coda con le ultime insomma riforme che aveva proposto, che insomma non mancheranno di arrivare in approvazione nei prossimi mesi, e anche con la riconferma di diversi ministri in questo nuovo governo, a partire proprio dalla cancellieri. Quindi insomma di novità se ne vede davvero ben poca, al di là appunto di questi tentativi di un po' svecchiare un governo che però insomma continua a fare solo rimpasti tra i soliti noti, e che davvero è riuscito a creare un esecutivo che non poteva essere più lontano insomma da un sentimento dal sentimento di fette sempre più ampie della popolazione, che l'hanno dimostrato insomma ampiamente in questi mesi, anche nelle ultime settimane con la rielezione di Napolitano e tutto il resto. Quindi staremo a vedere insomma quello che ci porteranno le prossime settimane, con l'augurio ovviamente che siano settimane di nuove lotte. Adesso sì, vi lasciamo un ultimo pezzo per prepararci a lasciare i microfoni ad Anima Radio, quindi togliamo insomma il punk delle Rebel Girl, delle Bikini Kill, che ci ha accompagnato per tutta questa trasmissione. Insomma, vi lasciamo con un pezzo che è un po' più nelle corde anche di Animal Radio, e vi invitiamo a rimanere sintonizzati sui microfoni di Radio Blackout, a rimanere sintonizzati alle frequenze di Radio Blackout, e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Libre comme le vent, j'ai mis les voiles où j'ai tué l'impossible. Tu fil de l'étoile, vite de tes boires, j'ai fui. Au large, je lâche ma rage et mes larmes, j'essuie. Je suis les fils quand les fils me décident. Je m'incline à la vie, même mes flips se résignent. Sur la route vers l'inconnu, j'écris mon récit. Terre promise, mon exil, loin de ce que le monde exige. Je suis du vent de l'énigme, libre mais digne. Je me délivre, éternelle pèlerine. Ligne ennemie de la route, une la tête pleine de rimes. Alors où leur monde s'engloutit. frontières jusqu'à voir le propre soleil s'aligner puis du vent. J'ai jamais oublié qu'on était tous frères. On ne fouille pas le soleil avec la poussière. Cœur ouvert, je retrouve mes ailes. M'en veux pas, ce système, je déserte. Appelle-moi du vent. Anche per questa domenica la puntata di Interferenze finisce qui, vi diamo un arrivederci alla prossima domenica, quindi un saluto da me, Daniela, e un saluto anche da Francesca, buon ascolto sui 105.250.